saluto da Max Macchia, che appunto vi saluta dalle frequenze di Radio Città Fujiko, dopo la bella trasmissione di Salvatore Titolo, appunto in modalità di frequenza, come si diceva una volta, ma d'altronde insomma ancora funziona così, chissà per quanto tempo, poi vedremo insomma rispetto alla radio digitale eccetera eccetera. Ovviamente c'è un nuovo modo di ascoltare podcast eccetera eccetera, ma insomma non sono qua per fare, e non è qua Max Machi per fare insomma una sorta di riassunto sulle tecnologie che accompagnano appunto l'ascolto radiofonico di questi ultimi anni. È qua per fare una trasmissione dedicata alle sirene, quindi altro che tecnologia, o forse il primo elemento che porta una sorta di incanto, anche quello tecnologico forse per tanti aspetti è un incanto, soprattutto insomma quando genera possibilità futuribili. Beh, in quel senso lì la tecnologia sicuramente è molto vicina all'incanto delle sirene, e tratteremo anche in un certo qual modo di tecnologia utilizzata appunto proprio per creare quell'incanto delle sirene, che poi probabilmente possa essere anche un incanto mortale come nell'Odissea. Beh, questo insomma lo lascio un po' a voi. Da queste parti insomma pensiamo che non lo sia affatto, anzi se forse si tratta di morte, una morte forse dell'oggi, del presente, magari per far scatenare appunto le forze del futuro, se volessero insomma intendere così il loro canto le sirene, beh saremmo di certo contenti. D'altra parte, altrettanto certamente, qua si intende appunto quel tipo di canto, incanto appunto legato alle sirene, e la trasmissione insomma prende le mosse anche appunto da un pezzo Sirens proprio di Cristina Vanzù, che non è veneta, ma insomma qualcuno potrebbe anche pensare detta così insomma dal sottoscritto, potrebbe anche insomma portarci al di là del Po verso il Veneto. No, non è questo insomma il caso, ma vi dirò tra poco insomma di Cristina Vanzù, anche perché è la nostra sirena iniziale, un pezzo tra l'altro si chiama Sirens, e è accompagnata anche da due personaggi molto importanti soprattutto per la Just Intonation, quindi legati al mondo della Monte Young, e la stessa insomma Cristina Vanzù, poi deciderò insomma nei prossimi secondi come chiamarla, al rientro appunto dell'ascolto di questo 451 appunto Sirens, pezzo che estraiamo appunto dal disco di Vanzù o Vanzu, ancora non ho deciso infatti, e appunto andiamo a sentire il primo incanto che ci propinano le sirene questa sera di 451 frammenti sonori. compositrice legata alle musiche contemporanee, ma anche alla musica contemporanea per dirlo meglio, ecco, ma con capacità, insomma, di spaziare dentro elettroniche che a volte si possono fare addirittura anche così vagamente così ballabili, ma un ballo ovviamente molto molto astratto, un ballo che forse ecco, potrebbe attraversare anche alcune delle sirene di questa sera. In questo caso però di certo l'album insieme a Michael Harrison, John Olso Bennett, si riferisce alla Just Intonation della Monte Young, seppur non c'è quel radicalismo, insomma, minimalismo che è sicuramente del grande maestro americano, tra l'altro americana, la nostra Cristina Vanzu, non lo dico appunto con l'accento finale, se no potrebbe, insomma, appunto portarci in altri lidi, non ovviamente statunitensi o comunque non immediatamente tali. In questo disco che si muove, come dicevo, tra Just Intonation e quello che sono paesaggi poi di grande anche incanto, forse ecco anche questo recupero, se vogliamo, insomma, di una chiave molto, insomma, vaga, così opalescente, potremmo dire, di melodie, ecco, forse, ecco, porta lontano, ecco, la nostra Cristina Vanzu, insieme a Michael Harrison, che è diventato un grande esperto, tra l'altro appunto della Just Intonation, e John Olso Bennett, che comunque riescono poi di fatto a spostare quello che è appunto una delle musiche più radicali, uno dei percorsi anche più radicali, quelli, insomma, della Monte Young. E se dovessimo, insomma, così sarà, continuare con un altro incanto, con un'altra di quelle sirene che sicuramente è anch'essa attraversata da così Just Intonation e da disegni infiniti di musiche che hanno una caratteristica, insomma, vitale e data proprio da loro anche può generarsi, autogenerative, appunto come certo radicalismo minimalista, ecco, del primo periodo, insomma, il minimalismo. Beh, la Cani Malone sicuramente ha un riferimento chiaro a quelle musiche, ma ha anche un riferimento, tra l'altro anche collaborazioni con abbiamo passato qualcosa qua, appunto, con quella ballabilità, ma fatemela passare come astrazione, anche se poi in realtà ha avuto proprio anche una collaborazione techno passata qua in un vecchio 451 frammenti sonori, dove appunto si è misurata anche con proprio la battuta vera e propria, anche se il disegno, insomma, della Malone è sicuramente quello dell'incanto estatico, drone, quanto appunto legato a una composizione che si muove su tessiture anche così molto molto liberate, poi anche da complessità magari che sono date, insomma, dall'idea compositiva, ma poi nel risultato, nell'ascolto invece hanno questo carattere appunto liberatorio, come questo Living Torch, questa appunto illuminazione, ulteriore illuminazione sonora data appunto da questo canto, potremmo dire anche per tanti versi un canto che ci porta, insomma, alla notte dei tempi, ecco, tanto per appunto tornare sulle sirene, su appunto anche tutta la mitologia ovviamente antichissima che c'è attorno a loro, prima, insomma, esseri tra la donna e il volatile, e poi appunto quelle più conosciute, insomma, tra le donne, appunto il pesce, e appunto andando a ricercare anche quei suoni, quelle sonorità, ma che ovviamente possono essere soltanto una sorta di suono immaginativo, no? La Callie Malone, anche così perlomeno immagino che possa essere, insomma, in una certa qual misura, ecco, misurata appunto la stessa musica, gli stessi incanti della Callie Malone che appunto ascoltiamo da questo Living Torch, in questo caso, insomma, la prima traccia delle due che riempiono, insomma, questo album. Cani Malone, ascoltato con veramente splendido Living Torch, un disco illuminato appunto da un canto lancinante anche per molti aspetti, anche se così magari ci può portare più a una dimensione così notturna, forse legata a spazi onirici. Beh, poi in realtà forse anche attraverso questi riusciamo anche ad andare in un altrove, magari appunto in un incanto e in un momento anche statico. Prima dicevo insomma della Cali Malone, che personaggio incredibile a livello musicale, tra l'altro molto legata a Caterina Barbieri, con cui concluderemo insomma l'ultima delle nostre, dovrebbero essere tre le sirene, ma abbiamo aggiunto anche una quarta, forse insomma una sorta di così sirena madre, ecco, potremmo dire, e delle tre, no? Tre, insomma, Malone, Vanzo e Barbieri. E, dicevo appunto della Malone, come riesca poi a così rendere decisamente incantevole e statico anche un qualcosa che poi per molti aspetti ha anche questo senso insomma molto molto scuro che potrebbe dare da certe sue musiche, ma in realtà appunto poi è quella capacità di rendere anche quell'oscurità una sorta di incanto, come d'altronde la grande così prima diciamo sirena madre, la per molti aspetti insomma magistrale Lori Spiegel, che anch'essa americana tra l'altro, seppure la Malone poi dall'America, seppure spostata, Lori Spiegel invece da Chicago, poi è rimasta in America, soprattutto insomma ha curato prima con degli studi legati più al classico, chitarra classica, e poi un incontro insomma decisamente importante, quella con Max Matthew, e quindi l'incontro con uno dei geni della computer music, delle musiche elettroniche tutte americane, il lavoro al bel studio dove appunto ha potuto sperimentare negli anni 70 questo immaginario veramente fuori dal mondo, una sorta insomma di espansione, ecco, infinita dell'universo, ecco, citando appunto lo storico disco da cui andiamo a prendere questa old wave, questa onda antica, ecco, in questo senso anche potremmo insomma fare così surfare, come si suol dire ultimamente, e anche la stessa Cali Malone su questa appunto onda antica, che non è l'onda chiaramente legata così a un ritorno didascalico, ecco, ma anzi una fuoriuscita dal tempo, dallo spazio appunto, come tanta elettronica di un livello, ecco, legato sicuramente per molti aspetti anche alla drum music, a una sorta di abbandono, di liberazione appunto estatica, no? Data da certo minimalismo elettronico, seppure con la Malone, prima dicevo, attraversata addirittura anche da collaborazioni con gruppi tecnoidi, ambient techno come Acronym, che appunto vi ricordavo per averli insomma inseriti in una trasmissione di qualche tempo fa di 451. E andando appunto a trovare questa espansione dell'universo, non soltanto sonoro ma anche proprio in termini concettuali di possibilità dal linguaggio, in questo caso musicale, ma in generale tecnologico, ecco, che riesce la nostra Spiegel tanto a fare appunto una capolavoro come appunto quel Expanding Universe, ma anche a filiare poi nel vero senso della parola con appunto derivazioni che non sono solo tali ovviamente, e sono proprio delle sorte appunto di maternità date appunto a un suono che diventerà sì, per molti aspetti appunto magistrale, sempre appunto con quel senso così magico, potremmo dire, questo senso appunto legato al canto in canto. Andiamocela appunto ad ascoltare anche noi, surfando insomma su questa old wave del grande Lori Spiegel. Come non rimanere incantati da questo suono veramente lancinante, ecco, che ci porta evidentemente in un'altra dimensione, probabilmente, ecco, sì, a sbattere contro gli scogli, veramente, come stava per succedere, insomma, all'eroe dell'Odissea, ma senza, insomma perderci per strane, insomma, forme classiche. Oddio, poi anche quelle poi per alcuni aspetti sono anche recuperate in questi incanti appunto delle sirene questa sera di 451, frammenti sonori. Però ecco, se dobbiamo perderci anche dentro un incanto che tra l'altro è dentro anche al Robot 13, quindi Robot Festival, ovvero Caterina Barbieri, preannunciavo prima, insomma, che avrebbe così chiuso questo 451 dedicato forse a delle sirene immaginarie, sirene reali, per quanto, insomma, possono essere reali le sirene. E con la Barbieri, che avremo modo, insomma, di vedere, di sentire anche da poche ore, ecco, in realtà, perché ci ascolta, insomma, postumo, come dire, e avrete modo, ecco, spero, ecco, a parte, insomma, veramente canti finali, definitivi, ecco, che non sono quelle neanche delle sirene, ma sono, o forse delle sirene, sì, ma quelle dei bombardamenti, ma non voglio perdermi dentro strani sogni, no? Catastrofisti, no? Beh, penso, insomma, non attraversiamo momenti di grande allucinazione, quindi ecco, momenti, ecco, molto così, come dire, di serenità, ecco, globale, e quindi di conseguenza non mi vengono in mente questi immaginari, ma tant'è, insomma, dentro nel nostro canto e incanto della Barbieri, appunto, anche appunto nell'ascolto postumo, insomma, rispetto a quello che sarà, ecco, il venerdì del Robot, dove appunto avremo modo di vederle e sentire, in quello di Bologna, insomma. Di sicuro, insomma, ha questa capacità, no, hanno queste capacità, queste musiche di rendersi e di andare oltre, ecco, di fatto, insomma, sono musiche postume in questo senso, insomma, e quindi questa capacità di comunicare, appunto, andando anche oltre l'evento, appunto, e il presente, forse in questo senso veramente ci portano dentro l'onda antica della Spiegel, e ci continueranno, chissà, per quanto tempo, forse musiche che si potrebbero sentire anche così in zone senza l'umanità, citando Onetrix Point Never di qualche anno fa, quando, insomma, sì, c'era un immaginario non tecno gotico, ma più che altro, insomma, un immaginario lo-fi catastrofista, seppur, insomma, attraversato anche qua da strane tentazioni di ballabilità molto molto astratta, ma qua si sta ballando appunto su una sorta una ballabilità molto molto rischiosa, ecco, una ballabilità sempre per finire, insomma, con l'immagine marittima delle sirene, una ballabilità che può fare anche, appunto, defragrare o perlomeno, insomma, portare a uno scontro. In questo senso Max Machiavi vi saluta, insomma, vi lascia, appunto, con questo incanto, l'incanto di Caterina Barbieri dal suo ultimo, tra l'altro, lavoro Spirit Exit, e appunto lanciandomi, insomma, così su questa onda, vi saluta e vi rimanda alla prossima 451.